Benemeta, Benemeta, Benemeta. Ehi, ehi, ehi. Ehi, è ancora un po' presto. Vabbè. Vado a sistemare gli strumenti del mestiere, che sennò poi il cazzo inizia a perdere roba e non lascia più, dai. Faccio anche io un po' di quel Rex e poi vediamo un po' se entra qualcuno. Dai, ma qui ci aggiorniamo dopo, ok? Grazie ancora. Ciao, buona serata, ciao ciao. Ui. Beh. Chi è? Lima Papa. Ah, hai messo il beep. Ecco perché. Sono andato sul 52 in USB, cazzo, c'è un casino, ho provato a farmi sentire ma non c'è verso. Con 12 watt e pochi, ci vuole l'aiutino. E poi sai cos'è, loro magari si sentono, tu non senti con chi sta parlando l'altro. È tutto così. Ti volevo fare un termine di paragone adesso. Vai, vai. Allora, tutto, distanza 5-6 cm, ZGM 95, uguale a quello. Quindi la timbrica praticamente dovrebbe essere come la tua. L'amplificazione no, perché questo apparato ha la modulazione chiusa, capito? Quindi adesso stai usando il microfono identico al mio? Sì, yeah. E in più ho messo il beep doppio, c'è il beep suo del microfono, e più c'è il beep naturale del baracchino, quindi adesso sembro Pomponio. Cappa, aspetta che metto anche io quello del microfono e mi dici che suona. Adesso inserite il beep del mic, mi dici cosa risulta insieme al beep della radio. Allora, i due toni del microfono non sono bene definiti. Qua credo che siano due toni distinti più il beep dell'apparato. Fammelo risentire un po'. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, allora, il primo tono si sente bene, il secondo no, un po' meno. Si sente un po' meno, ha un tono più basso e poi il beep naturale dell'apparato. Vabbè, quello del mic lo levo. Sì, anch'io, perché, è una paranoia, tutta la sera, adesso, vabbè, levo anche quello dell'apparato. Eia, tu che puoi farlo, io qua è fisso invece, peccato. Ti stavo dicendo, ero sul 52, in banda laterale, c'era abbastanza movimento, dalle Canarie, dalla Francia, insomma, belli gente, ho provato a fare un paio di chiamate, uno mi sembra, in mezzo a Rugasino, mi sembra che mi stava, insomma, che mi abbia risposto, però non c'era verso di comunicare. Eia, ci vogliono watt. Io non posso nemmeno ascoltare adesso perché questo c'ha 40 canali pure. Comunque propagazione ce n'è ma poca, altro che quella dovrebbe essere. Dovrebbe essere una cosa allucinante. Quando c'è, quando non c'è, pazienza. Comunque qua tutto vuoto, io ho acceso anche il vecchio smartphone. La velocità è ridicola, ora capisco perché l'ho cambiato. Mi vengono i nervi anche per aprire una pagina di aspettare 10 secondi, mamma mia. Lo so. Anche io ho un vecchio muletto, un Samsung GT8260. Cioè, fa venire solo i nervi. Sì, infatti adesso come l'ho acceso lo spengo. Non so perché l'ho acceso, stavo cercando quelle foto di quegli altri apparati da farti vedere, perché sui telefoni nuovi non ce l'ho, non ce li ho quelle. Anzi, ero convinto di averle, invece non ci sono proprio. Così ti facevo un'idea dell'aspetto degli apparati, capito? Vabbè, non ha... Già non è importante, era giusto una curiosità, capito? Giusto dargli un'occhiata. Ehi, spegnendo e poi la batteria dura poco, mamma mia, quando cominciano così le batterie. E quant'è? Da 3 anni fa ce l'ho quello, 3 anni più o meno, e di più non fanno, dopo 2 anni già comincia, le applicazioni diventano sempre più pesanti, eccetera. Comunque, come timbrica ti sei fatto un'idea, sì. Più o meno, sì, potrebbe essere un po' più acuto rispetto al mic normale, tutto lì. Sì, leggermente, questo è, risulta leggermente più medioso rispetto all'altro. Comunque va molto bene. Eia, oggi non è entrato nessuno. Lunedì, giornata, sai, di solito domani è giornata piena per me. Devo fare varie commissioni, mattina, sera. Vabbè. Ciao, già, adesso mi trasferisco all'altro computer, a quello portatile, a vedere se riesco a scavare, a togliere dalle tombe le foto vecchie delle altre cellulari, perché prima di fermarli ho messo tutto su hard disk, capito? Per non perdere foto, video. Capo, hai fatto un backup, giusto? Deia, su hard disk esterno però, perché hai notato che loro ti mettono a disposizione il cloud, se ti vieni, capito, vogliono che tu condivida tutto, foto personali, tutto ciò che c'hai, così un hacker appena entra fa razzia di tutto, cioè le foto personali magari vengono pubblicate, no, te lo do io il cloud, no, hard disk esterno, così dai noghi non esci. Sì, hai fatto super bene, hai fatto benissimo, per carità, certe cose bisogna tenere riservate. Sì, molta gente lo usa il cloud, poi si lamenta, come veleno che era, mi hanno rubato le foto nude, no? E voi mettetele in cloud, futtidini. Vabbè. E poi una volta era da ridere, era imbarazzante la cosa, Allora l'NSA, e tu sai che è l'NSA, no? Stava regalando un'applicazione anti-spyware, anti-malware, no? Perché la sicurezza era in pericolo e tu ti fideresti a installare un'applicazione gratuita che ti fornisce l'NSA, mamma mia, quello minimo è un Trojan di Stato, capito? Sì, vabbè, già lo sappiamo tutti che insomma, che molti hacker sono nel libro paga praticamente delle grosse aziende, quindi. Ehi. Vabbè, l'NSA sarebbe quella che ascolta tutto, collegata, cioè tutto. Poi già il fatto di avere Google, l'account Google, no? E il telefono è rintracciabile ovunque, è proprio. Chi è che l'aveva detto? Con gli smartphone, se avete. Poi Google è come Skynet Google. Capito? Dice dimenticatevi la privacy, dimenticatevela, perché magari voi siete convinti che ci sia, invece non c'è. Vabbè, qualcuno già si è divertito a suo tempo, con gli stessi metodi. Insomma, la tecnologia fa questo e altro. Eia, va bene, adesso mi travaso da una camera all'altra, dai. Qua la batteria non la carico da un anno e mezzo lo stesso. Qui tutti i microfoni, tutti buttati nei cassetti. Quello normale è il migliore, no? Venuta va per me, la mia voce alla fine. Qua devi stare batteria, puoi splatterare, non lo so. Vabbè, un po' ognuno si mette, si collega ciò che le fa più comodo, cioè è quello che gli aggrada di più, quindi io adesso avevo questo, volevo fargli la modifica, ce l'ho fatta, adesso ci lascio questo, poi vediamo. Ehi, poi mi sono ricordato il nome del mic che ti avevo detto, se tu avessi lo Shure, che però è da tavole, lo Shure, per quello che ha Franco di Viale Sicilia, quello ha un effetto presenza, cioè io come senti la voce, tu come senti lì la tua voce di persona, la sento al baracchino, è una cosa incredibile, però è tutta roba che non vendono più da decenni, capito? Quello che trovi ormai è ZG, poi qualche Proxel, però una submarca, capito? Oppure Astatic, che però la timbrica a me non piace degli Astatic, vabbè. Vabbè, Shure già, insomma, in fatto di microfoni già non deve chiedere niente a nessuno, quindi. Io l'avevo sentito 30 anni fa dal vivo, no? Cioè sapevo qual era, l'ho visto piazzare, l'ho ascoltato, era una cosa. Va bene. Cosa abbiamo fatto qua? Se hai vinto un Galaxy S9, clicca qui per averlo. Ma Santi Nandi. No. Buttaci tutto, cancella. Per carità. Dice, oppure ti dicono, hai vinto il Galaxy 9 per il concorso che avevi sottoscritto, io non sottoscrivo concorsi, mai, perché tanto poi, sì, ma hanno anche poca fantasia questi che mandano questo spam. Infatti, cerco tutto tipo di segargli le gambe a questi. Buonasera signorini. Buonasera. Mi Gianni ha messo l'M95 su quell'apparato. Io sto usando l'M95, però trimmer chiuso dell'apparato, lui trimmer aperto. Senti le differenze? Prova già. 1, 2, 3, prova Mike. Va bene Gianni, va bene, però non mi incanta. Prova Ecco qua, il microfono è messo a manetta, però come ho detto il trimmer qui dall'apparato è chiuso e quindi spingerà di meno, distanza più o meno quella 6 cm, dai, 3 dita dal mic. Allora, già lì c'è più appunto, c'è più medio basso, però sono belle tutti e due. Già ne ha più appunto, il principio fonico ancora di Gianni, la sua rimane più naturale. Eia, perché sa col trimmer chiuso è più ovattata, lo fa. E questo chi è? C'è un ragazzino in Piemera che sta smaniandomi sul canale solito, di quello canale comune. Io vado a cambiare l'acquario lì. No, io non ne ho più acceso. Sì, ma poi credo già che Civitalk sia abbandonata, non ho mai più sentito nessuno, ho provato un paio di giorni ma non zero totale, se no che senso avrebbe pagare il contributo, almeno non teniamo qua poi chi vuole andare in PMR, io già non ci sto più andando. Mi sono buriato di stare con queste cose qua, sono ricevitore, poi radioattori non le senti nemmeno più, sono quasi sempre in digitale, no, vabbè. No, non è, anche io pensavo che avesse abbandonato tutto, non è abbandonato, io stavo parlando con Luca e te sicuramente non ci dici, dove c'è, guardate c'era, stavamo parlando. Ah, su Civitalk che vuoi dire? Io ho provato un paio di giorni ma era proprio deserto in locale, poi vabbè ci sono i canali nazionali ma lì prima di entrare poi seconda di chi trovi, mamma mia, 13 e 4 anche. Sono un po' maleducatelli quelli del sud, non lo so. Cioè in proporzione sono più maleducati di quelli del nord. sì, diciamo che c'era gente di educata da parte del padre. Dai, con chi sei che non ho fatto ascolto? Io, Gianni è andato a cambiare l'acqua alle olive e basta, no, non è entrato nessuno oggi. Noi nel pomeriggio abbiamo provato il mic appena installato sul 20, però poi qua stavo facendo il cellulare vecchio, poi il cellulare vecchio mi stava già sperando, l'ho acceso, per aprire una pagina ci mette 10 minuti, capito, col vecchio. Ora ho capito perché l'ho cambiato, non li potevo più. Gianni, e beh, gli attacchi com'erano, come dicevo io, ma... Già, non lo so, non l'ho visto io. Io gli ho dato solo... gli ho detto quali erano i pin del 48, mi pare, pin 1 massa, pin 2 capsula, pin 3 trasmissione, pin 4 ricezione. Al primo tentativo non gli funzionava, cioè come attaccava il mic andava già in trasmissione, al secondo tentativo ha azzeccato la pedinatura. Sì, infatti io col tester in un attimo, poi lo becchi subito, poi la capsula, come ha detto ieri a Gianni, la capsula la riconosci perché trovi un'impedenza di circa 500 ohm, nel mio caso erano 480 ohm, e riconosci che è la capsula. Poi lui non so se abbia saldato il filo della ricezione, perché non è necessario su quell'apparato, cioè riceve anche togliendo il mic, capito? E come Galaxy, c'è lo stesso attacco del Galaxy. Eccomi. Gianni, ciao, buonasera. Ma volevo chiederti se gli attacchi era come dicevo io. Qua già, ad essere sincero, non me lo ricordo, lo sai, mi sono preso degli appunti di quello che mi aveva consigliato Marco, poi praticamente ho fatto praticamente un paio di ricerche anche su internet, però praticamente il primo tentativo non è andato in porto. C'era qualcosa che non fa, allora c'era qualcosa che non andava, allora praticamente ho preso il mic originale, ho smontato lo spinotto, ho scoperchiato giusto intanto per vedere i fili, i collegamenti, ho fatto un test col tester e ho visto praticamente più o meno in che modo andava collegato, e alla fine dopo, al terzo tentativo a dire la verità, ho fatto tre tentativi, al terzo praticamente ci sono riuscito. Stavamo dicendo, la ZG avrebbe fatto bene a fare, diciamo, come un MB più 5 versione palmare, cioè lo stesso circuito identico dell'MB più 5 e la stessa capsula anche, identica, in modo da avere la stessa identica timbrica e poi il controllo dei toni su un microfono palmare, sarebbe stato il massimo. Beh, ma non è possibile, ma che uno ricorda una cosa, che non è solo la capsula, è anche il riscatolato che costa. In base al riscatolato che c'è il microfono, ti dà la manifica. Perché io ho provato, quelli palmari, cambiare la capsula, mettere una fila, ma di questa timbrica di quello normale, infatti l'ho rimessa nel normale che andava via. E dipende sempre anche da, diciamo, dai compiti, da dove risuona, capito? Praticamente fa da cassa di risonanza, dai. Esatto. Tante volte sono fesserie, però conta, come che quello che tu ci sono lamellini dentro il microfono, ci dite che vittori ci mettono qua, attorno alla capsula del Feia. Comunque bene o male l'M93, gliel'ho spiegato nel pomeriggio, no? L'M93 va bene, no? Però se uno volesse una modulazione più corposa, il DM1000, voi avevate preferito tutti il DM1000 quando avevo fatto la prova a comparazione fianco a fianco, è più corposa, capito, più potevo di, maschile, quasi mascola. Io ce l'ho il DM1000. Io avevo il DM1000. Lo sai, vado a staccare la batteria, i morsetti, no? Quelli che si fissano su quei poli tondi. Era talmente stretto che si è staccato un filettino e si è rotto l'attacchino della batteria. Che naturalmente si può cambiare, però gli hanno fatto questi fili talmente sottili, ma talmente sottili, cioè non morivano, mi se mettevano il filo di sezione un po' più grande. Vabbè. Io mi ero pensato di avevo cambiato il filo perché si staccavano sempre i fili. E hai fatto bene già, hai fatto bene. E via. Poi mi ricordo che in macchina il DM1000 nella mia installazione, probabilmente perché avevo la base magnetica, magari il piano di massa non bastava, avevo un rientro di RF allucinante, fischiava, con 4 watt, proprio nudo e crudo, fischiava. E poi avevo letto sì che è comunque poco schermato il DM1000, è schermato meglio l'M95 ZG, è una cosa che ho riscontrato. Bene, poi dipende anche dall'installazione, te l'ho detto, base magnetica è sempre una massa fittizia, c'è e non c'è. Anche l'F10 non fa il microfono. Dici già, io ce l'ho l'F10 di allora, ma è brutto, me l'hanno detto, non spinge molto, non ha una bella timbrica, infatti potrei anche buttarlo, proprio non mi piace. Alan F10, me lo ricordo, l'M93 è il giusto compromesso, oppure DM1000, già è buono comunque anche quello. L'importante è non avere rientri di RF. Ok, dai. Io stavo per staccare, però devo fare una cosa al computer fisso. E vi devo lasciare, dai. Poi se c'è qualcuno state in compagnia, dai. Ciao Gianni il profeta, ciao Doppio Room, ci sentiamo le prossime. Comunque qua è sempre tutto acceso, ok? Buona serata. Dai, sto cercando delle foto che devo mandare. No, devo andare via anch'io, ciao Marco, devo andare via anch'io che devo farmi la spesa, dai, ci sentiamo. Ciao Gianni, mi dispiace, ma devo andare a farmi la spesa, devo andare anche in farmacia per prendere le medicine, sennò non c'ho medicina questa sera. Tranquilli, tranquilli. Fate quello che dovete fare, tranquilli, no problem. Dai, buon proseguimento, ci aggiorniamo, ok? Ciao lo profetta. Se c'è una modulazione, devo quasi abbassare quando parli tu. Molto alta? Già spinge. Te l'ho detto, quando l'apparato è predisposto, spinge. Va bene, alle prossime dai, poi se ti arriva qualche foto già sono io, sono uno, due, tre foto, tre apparati ti volevo far vedere, così a titolo di curiosità, così, ok? Buona serata dai. Papa Roger, grazie ancora, dai, ci aggiorniamo, buon proseguimento. Eccomi. Ecco anch'io, sì, facendo il telefono. Allora, ho modificato la piedinatura del microfono ZG M95 e l'ho adattata a questa radio. Quindi adesso mi stai ascoltando con l'M95 a 5 cm dalla bocca, col volume del microfono al massimo e il gain della radio al massimo. Quindi fatti l'orecchio con questo mic, perché poi ti attacco l'originale e mi dici qual è la differenza, ok? Ma qua si sente che sta spingendo, che è amplificato, dai, prova a cambiare. Ok, dammi un secondo. Allora Fra, questo è il mic suo originale, il mic della radio. Quindi dimmi tu, secondo te, quali sono le differenze? Ma per parlare vicino, questo è un pochettino più, spinge meno, quindi più chiaro. L'altro si sente che sta forzando, che è amplificato, dai. Papa Roger, ma nel senso, quello amplificato sta, cioè il suono è gradevole, si capisce chiaro oppure è troppo forzata? No, si capisce benissimo, è che si sente che è forte, no? È più corposa, perché questa è più da, come come si dice? Da questo locale, dai. È K. Dai, adesso rimetto il ZG e abbasso un po' il volume, così mi dici la differenza, ok? Beh, con quello c'hai sia la potenza massima che poi puoi anche abbassare, te la puoi regolare a piacimento, dai. Ecco, adesso praticamente il gain della radio è al massimo e il volume del microfono è al 50%. Prova a abbassare ancora? Microfono, volume del microfono al 25, al 30%, dai. Ma così andrebbe benissimo per parlare tra di noi. Poi quando ti serve forte, non so, uno che ti sente basso, puoi sempre aumentare. Ok, dai, lascio così allora. Sì, sì, parlando tra di noi è l'ideale, questa modulazione è perfetta, chiara, chiara, limpida. Ok, fra, grazie. Vabbè, stavo, siccome ho fatto la connessione, l'ho sistemato poco fa, stavo parlando con Marco Condor e quindi stavo provando i vari livelli e niente, l'ho tenuto al massimo, insomma, perché dice che era abbastanza buono, spinge e insomma una bella modulazione, dai. Capo, almeno qua c'hai anche i canali dove ti puoi divertire, dai. Capo Roger, sì. Almeno qua ce n'è da, insomma, ci sono tutti i canali sopra e tutti i canali sotto, quindi già è carina, molto bella come radio. Quante bande c'ha? 5. Hai capito? 6 bande. Allora come questo, come samurai. Ehi, ciao fra. Prima stavo ribadendo a Gianni che l'usciure non si batte. Quando il modulatore, il baracchino è buono, l'usciure è effetto presente. Dai. Ciao a tutti, ho sentito dall'altra stanza. Ciao ciao, buona serata. Ciao carissimo, ben sentito. Ho sentito che gli hai fatto una cortesia, dai, almeno ci diverte un po', come arriva un po' di propagazione. Sì, sì, perché tanto qua è tutto ammassato, tutto buzzato, quindi meglio smaltire, anche per fare spazio negli armadi, nei tiretti, nei cassetti, capito? Va bene, ciao di nuovo, buona serata. Gianni, sto trovando quelle foto, dai. Sto qui iniziando a trovarle, dai. A dopo, ciao, ciao, ciao. Capo Roger, aspetta, fra che sto cercando il contatto e poi ti mando la foto, ok? Ehi capo, saluto ancora Marco, ben sentito. Poi mi dice che se l'antenna hai fatto qualcosa, sai sempre quella, la boomerang, dai. Aspetta un attimo, se non riesco a fare niente, ragazzi. È arrivato qualcosa, eh? Ok, foto mandate. Quello di sotto è uguale al quella samurai. Ma la radio stai dicendo? Sì, preciso, eh. Ma è quello che c'hai tu? Sì, sì, il samurai è uguale, spiccicato. Cioè, se i bandi c'hai... No, forse siamo a cosa diverso, cioè. Io le bande ce le ho... Aspetta che lo zoom un po'. Le bande le cambi dove c'è il tuo dimmer? K, sì, è lì. È lì, è lì. Invece io lì ho segnato A, B, C, D e F, le bande, no? E poi da su schiaccio il tasto HI oppure LO. K, sì, qua c'è praticamente il selettore, il commutatore, praticamente dove c'è scritto dimmer. No, è spiccicato, diciamo, sicuramente l'ho acceso parecchio. Cambia la marca e boom. Eia. Sì, già va, vedo che sta comportando molto bene. No, sono ottimi apparecchi, guarda, non prendono splatter, vanno molto bene questi apparecchi. Eia, ti ho mandato anche la foto della Ringo che l'ho piazzata. Quindi stai uscendo la Ringo, ah no, gli manca anche un'altra cosa, non ha il CV doppio, invece questo samurai c'ha anche il CV doppio per attaccare il telegrafo, dai. Sì, qua manca il CV, sì. Però è uguale, è preciso. Sì, vabbè, Marco l'ha lasciata con 5 watt in AM. Sì, l'ho portata anch'io, l'ho portata la mia. Ma adesso sta facendo con 4 watt, 4 e mezzo. K, sì, va più che bene, dai. Certo, sì, poi quando vuoi qualcosa attacchi. Vabbè, io adesso la uso così, non devo smanettare nulla. Adesso non so, ma come segnale noti differenze dall'altra antenna a questa, vabbè che siamo molto vicini. Avevo dovuto memorizzare tipo con l'attenuatore, cioè portarti, non so, a 5 e e poi provare il cambio dell'antenna, così non sei sempre lì in zona del più, nel più del 30, sì. KK. Va bene, allora, gli unici due che mi hanno detto che ho, che mi hanno segnalato un piccolo miglioramento, uno è Franco da Sorso, che dice che insomma ho migliorato un pochino, e poi Daniele dice che anche da lui sono salito un pochino. Porto Torres, devi guardare queste persone qua, Porto Torres, Eugenio. Vabbè, non ci siamo ancora sentiti con Eugenio, per cui sto appena capita tiro già vediamo, dai. L'altro giorno siamo passati con la macchina operatrice sotto da te, dai, e vedevo la punta dell'antenna, vedevo. Ma la della Ringo? Adesso vedevo la punta, poi non ci ho fatto caso, pensavo che fosse l'altra. Ho capito, dai. L'ho piazzata domenica mattina, credo. E allora no, era l'altra, perché io sono passato sabato scorso. No, l'ho sistemata praticamente domenica mattina. No, va bene, dai. Piano piano stai migliorando, hai visto? Ehi, dai, adesso ho sistemato anche il microfono, che insomma, vedete, già c'era il suo microfono originale, però volevo collegarci questo. Va benissimo, sia uno che l'altro, guarda, sono tutte e due radio 5 perfette. Bene meda. C'è un po' di vento, ogni tanto sto andando a controllare sull'antenna, che insomma, rispetto a quella che c'era prima è parecchio alta. Anche a me me la sta strofinando sulla punta, sulla grondaia, vedrai che qualche giorno si spetta in due, perché a furia di fregare il strofinante ci consuma un po' di abrasione. Vabbè, oggi poca gente, cioè ancora non è entrato nessuno, vabbè, a parte Marco, doppio room che si è spostato, non è entrato nessun altro ancora, dai. Sarà gente, qualcuno sarà in ascolto. C'erano anche i camionisti perché ho fatto il 5. Già ti ho sentito lì, infatti. Chi c'è già? Qualcuno ha chiamato? Ehi, Gattino, ciao, buonasera. Perché è così basso, Tino? Buonasera. Allora, qua sei molto basso, io ti ricordavo un segnale più, molto alto. No, il radio non interessa. No, basta anche la radio, perché il segnale, se si muove appena lago. Si muove appena lago, guarda un pochino. Il segnale è basso, e la radio sta distorcendo e sta strappando. Ma c'è qualcosa, cioè io mi ricordo segnale tipo 9-10, segnalettino. Non sei tu. Controllate l'antenna, c'è ancora. Lo vedi? Cosa c'è? Il commutatore girato avevi? No, cambiato il radio. Adesso c'è un segnale 9 più 5. Aspettate, scusate, devo fare una prima. Ok, avanti già. C'era qualcun altro sotto che forse stava chiamando. Sta ancora chiamando? Ciao l'amico, arrivi in mezzo al QRM, non ho ben capito chi sei, comunque salutoni anche a te, la radio è bassa e sei in mezzo al QRM, quindi ho difficoltà a capirti. Avanti l'amico. No, sempre bassissimo. Ciao piccolo puffo, ben sentito. Qua sei in mezzo al QRM, riesco a malapena a capirti. Sassari, zona stazione, quindi Radio 3, Santiago 3, dai, in mezzo al QRM. Piccolo puffo, dove ti trovi in questo momento? Proprio in mezzo al QRM. Tu non lo senti, Fra? Franco? Franco, ci sei? Attenzione, Franco. Sì, sono in ritardo, ditemi. No, dico, se è piccolo puffo lo sentivi? No, fa proprio zero. Dov'è che modula? Non lo so, è in mezzo al QRM, non sono riuscito giusto a capire il nome. Sono... Ciao K, ho difficoltà ad ascoltarti, amico, ho difficoltà proprio ad ascoltarti, sei in mezzo al QRM. Ok, dai, buon proseguimento di serata, alla prossima, grazie. Gianni, ma dove sei? Ciao caro, ciao Daniele, allora. Ciao, ma buonasera, no, io ero al 5 parlando con piccolo puffo. Sentivo a te piccolo puffo, cos'era qua era? No, io sentivo piccolo puffo qua, sul 10, poi non so se era al 5. Ciao, eravamo al 5 parlando. E io lo sentivo anche qua, cosa vuoi ti dica? Con i parentesi e pigliendi. Aspetta, ma lui è ancora sul 5? Ehi, c'è propagazione al 5, vai al 5. Fra, spostati anche tu al 5, dai. Ti sta chiamando Daniele. Capa, c'era anche... come si chiama? Bah, un altro amico. Okay, no, ma c'era un altro amico che stava provando un apparecchio, adesso non mi viene il nominativo. Lupo grigio per caso? No, da Sassari. Avanti. E stavo facendo bassissimo. Cazzo, l'ho anche chiamato. Ok, mi dico, non mi viene adesso la memoria, raga. Ehi, non parlarmene fra, lasciamo perdere, secondo me c'è un principio in Alzheimer. Oh yeah, a posto siamo. Dai, proviamo, ci spostiamo sul 5 e facciamo un po' di ascolto, dai. Ehi, ciao fra, saluto di ciao. Si mangia la mozzarella, guarda sta foto, io ho detto. Non c'è nessuno? Cappio! Il profetta, cambio! Gianni, ci sei? Non c'è nessuno? Gianni, canale 10. Ehi, non c'è nessuno, se uno lo chiamo, non c'è nessuno. Gianni, canale 10. Cosa, mi senti? Attenzione, chiama buonanotte, chiama Gianni, canale 10. Eccomi fra. Proprio casino? Vabbè. un po' di abulotto, dai. No, se volevi provare, magari a vedere la gittata, la portata dell'antenna, va. Lo so, ma adesso c'è troppo abulotto, dai. Va. Vediamo se c'è qualcuno qua su questa banda qua. Sì, una prova devi fare. Franco, ma ti sei spostato? Qui sento qualcuno sul 12 in FM. Ah, cappa. Boh, mi sembra di sentire qualcun altro adesso. Ma qua, roba locale? Sì. Hai detto 12 FM, giusto? Lei sento qualcuno, io un po' basso, magari tu li senti più forti. Prova a vedere. Franco? Cucù. Avanti. Chi vuoi che sia? Com'era? Perché io là non ho 40 canali e lì ci vogliono kilowatt mi, addirittura o già, non watt, lì sono tutti a kilowatt. mi sembra che ci sia gente sul 12, tedeschi. Sì, c'è propagazione un po' dappertutto. Chi ha parlato sotto, avanti? Siete qua? Capa Roger, mi sa che i tedeschi erano in AM sul 12. In AM? Io sentivo in FM, boh. Aspetta? Sì, FM. Capa Roger! No, sono in FM già.